Un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa. Allora sì, scattano proprio in questo istante le ore 23 qui in diretta da Radio Onda Rossa. Siete in compagnia di DJ Misk qui al microfono, insieme sempre a DJ Amischietta. Ma ci sono anche due nostri carissimi amici, Davide e Debina, che saluto personalmente. E insomma, siamo qui per ripartire con una nuova stagione targata Altroverso, solo musica elettronica. E questo, diciamo, il contenitore, la trasmissione musicale ormai principe e regina qui del sabato notte di Radio Onda Rossa, la frequenza libera e ribelle dell'etere di Roma e provincia. Dunque, ricordo i vari contatti: 0649 1750, il numero di telefono di questa grandissima radio. Il suo sito ufficiale invece è www.ondarossa.info. Il nostro sito personale è altroverso.net, sito da cui leggere le playlist, rimanere aggiornati sulle ultime release della, diciamo, del mondo indipendente della musica elettronica, e poi naturalmente poter ascoltare in streaming la radio online 24 ore su 24. Insomma, il progetto Altroverso prosegue anche, diciamo così, al di fuori del sabato notte di Onda Rossa. Dunque, dopo aver così sparato subito i nostri contatti per interagire con la trasmissione, direi che siamo veramente pronti per far risuonare la musica elettronica underground qui dalle frequenze di Onda Rossa. Siamo pronti per questa puntata numero 671. Alzate il volume e slacciate le cinture. Questo è Altroverso. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altroverso. Dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altroverso, il meglio della musica elettronica. Selecta di questo sabato 10 settembre, una produzione abbastanza così, come dire, soft, molto deep, in questo remix di Phonik per la traccia originale Slideshow Park. Si chiama Shining ed esce su etichetta Highway Records. Questa è la prima new release della settimana per Altroverso. Vi ricordo come sempre faremo suonare questa musica, questi suoni, queste sonorità, principalmente deep house, tech house, minimal, insomma tutto ciò che si muove nel versante, però naturalmente indipendente, non assolutamente commerciale. Non ascoltate cose banali qui da noi, piuttosto insomma produzioni underground ed indipendenti. Prossima novità dalla High Grade Records, direttamente dal headquarter Berlin. Ascoltiamo Mihai Popoviciu con If There Is. È il titolo del nuovo 12 pollici firmato Mihai Popoviciu per la High Grade Records. Abbiamo ascoltato anche la title track, questa che sta ancora girando qui dalle nostre parti, dalle parti di Altro Verso. Altri suoni, altra musica. Come sempre la prima ora è di diretta, dove praticamente vi presentiamo le ultime new release che usciranno oppure sono uscite proprio in questi giorni principalmente, però insomma sono tutte produzioni, diciamo, promozionali, ovvero che devono ancora uscire. Insomma, questa è un po' la caratteristica di questa trasmissione, diciamo, le cose qui arrivano prima che magari le trovate in giro, piuttosto che le riuscite ad ascoltare, che sono nei club o nei vari pari, insomma, dove andate o che frequentate. Comunque, bando alle ciance, ascoltiamo la musica che è meglio, taglio corto, e vi presento subito Hakan Libdo con Heather's Secret Life Remix su etichetta Underground House Foundation. Heather's Secret Life Remix per Hakan Libdo su Underground House Foundation. Vi ricordo che Altroverso lo trovate anche sul sito, su internet, all'indirizzo altroverso.net. Lì trovate la playlist completa con i titoli delle tracce, i nomi degli artisti, con le reviews, e poi naturalmente con la zona web radio, dove ascoltate in qualsiasi momento della giornata e qualsiasi giorno della settimana la musica in anteprima proprio di questa trasmissione. Vi ricordo quindi altroverso.net per maggiori info. Prossima novità è Nico Schwind. Torniamo ancora in Germania per la Silver Talent, produce questo Moving Forward. Thank you. così, questa era Nico Schwind con Moving Forward su Silver Talent. Prossima è Sycophant Slugs con Anti-Sailing nella versione Smash TV remix su etichetta Get Physical. Sono il duo degli Smash TV che dalla B-Pitch Control, insomma, si sono così un attimo spostati per la Get Physical per remixare questo Sycophant Slugs nella traccia Anti-Sailing. Questa è una ottima novità che ascoltiamo qui all'interno di Altroverso. Sono le ore 23:20, sempre in diretta qui su Onda Rossa, sempre solo sulle frequenze libere e ribelli dell'etere di Roma e provincia, sempre il sabato con la musica elettronica. Adesso ascoltiamo Klein Schmeiger Audio con Mats Woman su Regular Records. così questa è la settima release targata Kleinschmeier Audio con Mats Woman, uno stile un po' più techno nel senso classico del termine, ed è anche la traccia che così conclude questa prima mezz'ora di novità per Altroverso. Sono le ore 23:25, sempre in diretta con lo staff di questa trasmissione. Adesso ci fermiamo esattamente 3 minuti con un paio di spottini importanti che riguardano iniziative prossime, venture, e ritorniamo appunto fra 3 minuti sempre con la seconda parte di Altroverso. Non mollate, rimanete sempre qui su Onda Rossa. Resistance is resistance, 2 giorni a fianco della lotta in Palestina. Venerdì 30 settembre, Facoltà di Lettere Roma 3, via Ostiense 234, a partire dalle ore 14, incontro e dibattito sulla campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro il progetto coloniale di Israele. Partecipano da Roma, Stop a Grexto, Free Palestine Roma, da Londra, People's Army, Low Key and Logic e Shadia Mansour. A seguire, proiezione anteprima del documentario Hip Hop is Bigger Than the Occupation. Il documentario racconta del viaggio di diversi MC per 10 giorni nella West Bank occupata. Nei campi profughi di Balata, vicino a Nablus, scoprono che vuol dire vivere sotto occupazione militare israeliana. Existence is resistance, 2 giorni a fianco della lotta in Palestina. Info su fortepremistino.net, existenceisresistance.org, freepalestine.noblogs.org. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Existence is resistance, 2 giorni a fianco della lotta in Palestina. Sabato 1 ottobre, al CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle. Dalle 12, graffiti a 100 celle. Ore 20, cena palestinese. Presentazione del DVD realizzato a Gaza dalla carovana Corum per ricordare Vittorio Arrigoni. A partire dalle 22, concerto. Serpe in seno, il nano, Kento. E a seguire da Londra, per la prima volta in Italia, Low Key, Logic e Shadia Mansour. Existence is resistance, 2 giorni a fianco della lotta in Palestina. Sabato 1 ottobre, al CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle. Info su fortepremistino.net, existenceisresistance.org, freepalestine.noblogs.org. Serata a sostegno dei progetti in Palestina di Free Palestine Roma. Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. La notte comincia con Altroverso. Porto dalla notte, musica elettronica sin interruzione. Qui sempre altro verso style con la musica elettronica del sabato notte di Onda Rossa con DJ Misch, Mischietta fino alle ore 6 della mattina, solo le migliori selecte, solo le migliori selezioni indipendenti underground, sempre qui su Onda Rossa. Era Benno Blom and Angel con Gonna Be su etichetta Sensor Records, nella versione remixata da Marcin Zubala. Questa è la traccia con la quale abbiamo ripreso questa seconda parte di Altro Verso, questa seconda parte di diretta, che insomma vi ricordo ascolterete la mia voce fino alle ore 24, poi dalle 24 fino alle 5 invece in selezione automatica solo musica intervallata da gingoletti, e poi dalle 5 alle 6 invece lo spazio per rilassarsi, ovvero la zona chill out, dove ascolteremo principalmente tracce ambient e appunto chill out. Tutto ciò solo qui sugli 87.900 in FM oppure su internet all'indirizzo www.ondarossa.info tramite lo streaming oppure sul nostro sito che è www.altroverso.net. Siamo passati su etichetta Dynamic Music per ascoltare Steaming e la sua Challenge the Air. Questa era Steaming con Challenge the Air su Dynamic Music, versione anche cantata di questa traccia, che possiamo trovare anche nella dub version, che poi sarebbe la versione strumentale, un po' un termine tecnico almeno per la musica elettronica, per dire insomma che la dub version è quella appunto non cantata, dove non è presente voce. Adesso ascoltiamo grandissimo lavoro firmato Michael Stavostrand con Nothing More su Amam. Veramente bella questa traccia di Michael Stavostrand per la label di Alessio Mereu, la Amam Records, si chiama Nothing More, un'altra bella novità all'interno qui di Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica, sempre con Misk e Mischietà. Adesso arriva Jen con Helen su etichetta Pop No Rama. chiama Helen, la traccia di Jen, nuova artista che si muove nel panorama underground tedesco da qualche annetto a questa parte. È inceso su Karate Club, Karate Music, ma anche su Pop Norama, e appunto la label che ha fatto uscire proprio questo nuovo dischettino. Si chiama Helen, appunto. Sicuramente Jen rientra, diciamo, tra le artiste donne che meglio riescono ad esprimere, diciamo, il nuovo stile, così più tribal e più come dire, tech house della nuova elettronica, insomma, almeno della seconda parte di questo terzo millennio. Ciara Samen e Marcus Vector invece sono un po' dei veterani per queste sonorità, per questo ambiente. In questo caso fanno coppia con Johnny Cruz e producono Anyone su Toys for Boys Records, che però noi andiamo ad ascoltare nella versione remixata da Quenum. Questo è sempre Altro Verso, sempre qui su Onda Rossa. Sono Ciara Samman, Marcus Vector featuring Johnny Cruz su Toys for Boys Records. Vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione in streaming direttamente sul sito altroverso.net, anzi più esattamente giusto dire in podcast. Potete scaricarla sul vostro computer, la trasmissione, riascoltarla tranquillamente, oppure, come dicevo, direttamente sul sito altroverso.net, appunto nella sezione podcast. Potete naturalmente anche ascoltare invece lo streaming della diretta per la web radio proprio di Altroverso. Arrivano adesso Magda e Suede con Fixation su etichetta Items and Teens, e parliamo naturalmente del giro Minus Records, qualcosa che ha a che vedere con il Canada e Berlino, più o meno, insomma, stiamo lì. diciamo, l'asse principale si muove proprio nella capitale tedesca ormai da parecchio anni, ma comunque anche se ci riferiamo a Barcellona non è da meno. L'Italia in alcuni casi riesce ad esprimere anche ottime sonorità, ottimi artisti. Comunque ascoltiamo adesso Magda and Sweden con questa Fixation, sempre qui con Altro Verso. Chi non lo avesse capito, questa track si intitola Fixation, prodotta da Magda and Sweet, su etichetta Items and Things, che poi un po' traducendolo alla lettera sa significare pezzi e cose. Un po' così il nome di questa label, che è poi la sub-label della Minis Records. Insomma, parliamo di nomi altisonanti, di produzioni insomma di spessore, di carattere insomma veramente profondo. Ore 23:53, sempre qui in diretta su Radio Onda Rossa, la radio libera dell'etere romano e della sua provincia. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultima selezione novità per questa settimana di Altro Verso, puntata numero 671, per l'ultima novità di questa appunto prima ora di trasmissione. Altro Verso è targata We Love, il duo italiano che incide su etichetta B-Pitch Control. Fatto uscire Even If Remixes e noi ci ascoltiamo la versione remix di Troy Pierce.